Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no? Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non ce n'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto degli studi, se vede, e noi siamo arrivati a questa decisione. Stavo di qua, mutanda da fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno, un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno carissimi belli di casa, benvenuti qua su runtimeradio.it. Ditemi se mi sentite, perché io c'ho qualcosa di strano nel modo in cui ascolto, sento le cose. Ovviamente installate qua, disinstallate là, e succede anche questo qua alla fine, che praticamente alla fine le cose che tu pensi che debbano funzionare non funzionano più, e quindi è colpa di Zoom. Ma fondamentalmente in teoria mi si sente, io sento la voce molto più bassa di quella che dovrebbe essere la radio, cioè nel senso tutto il resto degli asset, ma vediamo, insomma, poi cercheremo un po' di capire e cercheremo di riconfigurare nella giornata di oggi un po' tutte le impostazioni, perché evidentemente insomma qualcosa ha da essere successo. Detto questo, invece oggi andiamo veramente molto a casa, anche se un tema ce l'abbiamo, ma soprattutto è una puntata totalmente cantautorale, cioè nel senso oggi proprio è un cantautorato a perdita d'occhio, perché praticamente niente, questa è la scelta che mi è venuta in mente oggi, e soprattutto perché secondo me in qualche maniera un pochino si ricollega anche a parte dei temi, insomma, che vogliamo trattare questa mattina. Invece siccome che ieri sera quando Walter Sbano con le orazioni della sera stava per andare in onda, ci siamo resi conto che il server era caduto di nuovo, e ultimamente è successo due volte fin troppo ravvicinate, quando insomma per molto tempo magari non era mai successo, magari c'aveva avuto altri tipi di problemi, ma ci sta in una struttura completamente autogestita dal punto di vista tecnologico da noi, per essere indipendenti dagli altri, ci può stare insomma che magari insomma possano succedere cose che magari non ti aspetti quando paghi 20-30 euro al mese e via dicendo. Buongiorno Walter intanto. E comunque stavo dicendo che ieri sera, dato che c'è stato questo tipo di problema, questa mattina se ne è creato un altro, ma questo è un problema mio, strettamente mio, perché mentre accendevo praticamente il lambaradam qui per il mio telefonino, mettendolo sintonizzato su runtimeradio.it per vedere se tutto funzionava regolarmente, se c'era bisogno di disincastrare determinate cose, a un certo punto il mio telefonino ha smesso di emettere suoni dei contenuti multimediali, tant'è che pensavo che fosse un problema della radio. Dico, porca puttana, ma che è successo qua, la radio che aggiorno, faccio, chiudo, riapro, roba del genere, riavvio, ma qui non si sente più niente, come può essere? È venuto il dubbio che potesse essere il telefonino, anche se non capivo in che modo e perché. E infatti, andando su YouTube, aprendo un video a caso, il mio telefonino non emette più suoni. Mo vi dice, cioè, forse c'è il volume basso. No, non c'ho il volume basso, perché fino a là magari ci arrivo, insomma, no? E quindi deve essere successo qualcosa, o devo aver spinto qualcosa che deve aver disattivato nella maniera più totale, ovviamente, quello che è la produzione degli audio multimediali. Se qualcuno conosce gli Xiaomi Mi 9, Mi 10 e via dicendo, e mi vuole dire, insomma, come si può entrare nelle impostazioni audio generali, non soltanto il volume 1, quello là che vedi con la scelta rapida, dico i vari tipi di volume, insomma, io sarei contento, perché chiaramente questo è un disagio. Ecco, diciamo che stare in questo modo è un po' un disagio. Cioè, avete presente il disagio? Ah, ecco, io adesso mi sento meglio, forse devo alzare le cuffie. vabbè, fatemi sapere, insomma, se sentite bene, perché è importante questa cosa, naturalmente, anche se c'ho un po' di un po' di respirazione così. E comunque questa mattina un po' incazzati in questa maniera qua, poi alla fine siamo consolati e Michele con un cornettone gigantesco alla Nutella spaccato in due, e ne abbiamo goduto, anche se abbiamo sporcato mezza cucina e vabbè, insomma, a parte, insomma, di questo contenuto di Nutella, l'abbiamo dovuta poi raschiare via dal tavolo, perché talmente come l'abbiamo tagliato in due è esploso praticamente. Capisco, insomma, che queste sono informazioni che probabilmente non vi fregano niente, però invece a me mi frega, voglio condividere con voi. E quindi iniziamo questa mattinata cantautorale con uno dei capelli tanto ricci, tanto tanto ricci, non so se ce l'avete presente. Sei felice, sei dei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro, alla fine che ti resterà? Vanità di vanità. Va cercando qua, va cercando là, seguendo sempre felicità, sono allegro e senza affanni, vanità di vanità. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà. Tica dai lalta, chi da dai lalta, chi da lei ci è carnai lalta, chi da lì lalta dai di dai da, ti è chi dal til dai di. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà. Angelo Branduardi, vanità di vanità, ragazzi, a me Branduardi mi è sempre piaciuto, uno perché comunque quando lo vedevo da ragazzino con sti capelli mi ricordava la pubblicità, quella di quello con le mele in testa, non so, associazioni che non c'entrano niente, che uno magari da ragazzino fa perché è psicopatico, e poi perché c'ha sempre avuto questa tinta medievaleggiante, no? Questi colori medievaleggianti nelle sue canzoni, che ovviamente riprendono evidentemente a piene mani da, comunque, da una cultura musicale e anche da uno stile che lui stesso ha voluto dare al suo cantautorato, e quindi l'ho sempre apprezzato moltissimo. Detto questo, cioè, volevo dire, sempre tornando al discorso del server di ieri sera, che poi sbano praticamente, è come che ne so, un vecchio capitano che è stato un eroe, no? con la sua nave ha distrutto nemici, ha fatto tutto quanto, a un certo punto deve uscire e si rende conto che non gli è permesso di fare una cosa, e allora se ne va nell'hangar che tutti hanno dimenticato e va a ripescare praticamente la nave impolverata da qualche parte. Ieri sera Sbano ha riesumato praticamente Spreaker, che insomma, cioè, intanto ci dimentichiamo che comunque abbiamo questa possibilità, no? Questa alternativa, questo modo di poter andare online, on air, soprattutto quando ovviamente ci sono altri problemi, per non lasciare comunque quelle persone che sono abituate a ascoltarci a quella determinata ora e che gli dispiace magari se manchiamo. E l'abbiamo visto questo inizio settimana, dove OGM praticamente è saltato, le orazioni della sera sono passate per una sola occasione invece il martedì, ma al lunedì, perché martedì abbiamo fatto questo speciale su Richard Benson, nel quale insomma abbiamo avuto anche degli ottimi riscontri. Però giustamente alla fine, al martedì la sera verso le 8, la gente, ma non c'è le orazioni della sera, perché chiaramente oramai le persone prendono l'abitudine, no, di ascoltare determinate cose. Questo può essere una responsabilità, un peso magari per certi versi, però dall'altra parte è anche una soddisfazione, perché ci permette insomma di renderci conto del fatto che quello che facciamo c'ha un minimo di valore per qualcuno, per quanto questo qualcuno possa essere minimo rispetto a tanti altri, e via dicendo. Invece, proprio per concludere, iniziare poi dopo una prima parte con una domanda che vi vorrei fare, anche se non vi vedo molto partecipi, diciamo, nella chat vedo un po' insomma sulla biocco andante, volevo dire proprio questa cosa, che noi abbiamo fatto questa settimana di sperimentazione su Twitch, dove abbiamo fatto un lavoro di interconnessione laddove aveva senso, quindi nei talk show più tradizionali, anche se quello di Richard Benson poi in realtà ci siamo dimenticati di far partire l'interconnessione su rantemradio.it, quindi eravamo solo su Twitch. Ma questi sono errori che quando si sperimentano degli step in avanti succedono, sono sempre successi e probabilmente succederanno anche ancora, e praticamente ecco, insomma, questa sperimentazione che noi stiamo facendo su Twitch è che a volte, tipo appunto proprio la diretta che abbiamo fatto su Benson, il tempo che ci è voluto per preparare la diretta e tutto quanto, ci si domanda, perché poi bisogna fare anche un lavoro poi di analisi insomma interna, ci si domanda se vale la pena questo tipo di lavoro che facciamo in proporzione alla quantità di tempo che ci impieghiamo rispetto a quanto poi in realtà porta risultato. Ma ieri sera abbiamo fatto un'altra live esclusiva Twitch, dove praticamente ho intervistato Alex Raccuglia, che ha presentato in maniera abbastanza ufficiale e dettagliata in italiano la sua ultima applicazione, che ha dei tutorial in varie lingue, tedesco, inglese, però mancava forse qualcosa di veramente strutturato in italiano. E ieri sera, proprio durante quella diretta, noi abbiamo superato diversi achievement, e mi è arrivata infatti la mail proprio questa mattina che siamo a un passo dal diventare partner. Nell'arco di una settimana devo dire che è una soddisfazione il fatto di aver abbattuto delle barriere in maniera così rapida, perché Twitch comunque evidentemente in qualche maniera avvantaggia, no, un certo tipo di discorso. Quindi vediamo insomma nelle prossime settimane se ci sarà un ulteriore incremento, bene, altrimenti poi useremo Twitch soltanto quelle volte in cui riteniamo di doverlo usare, ovviamente. Intanto Leo ci scrive: non è a biocco ma fase REM. Beh, ancora meglio. Dai, puntiamo alla luna. Noi sempre puntiamo alla luna. Noi, cioè, diciamo che in questi 12 anni non ci siamo mai accontentati, diciamo abbiamo avuto dei momenti di impasse, ci siamo stabilizzati nelle nostre comfort zone, però abbiamo poi sempre sentito l'esigenza di fare lo step in avanti, vedi la web radio stessa poi in qualche maniera, anche perché quando si fa un'attività come questa qua che facciamo noi con la web radio e i podcast, ed è un'attività particolarmente intensiva, se non lo si fa con l'entusiasmo, quindi non ci si autostimola, alla fine non è un lavoro, capisci, cioè non ti porta niente a casa, no? Oltre alla soddisfazione magari di fare questa cosa e dare avere un rapporto con gli altri, e quindi insomma ci deve essere quello smucinare ogni tanto, sebbene noi partiamo dal podcast, il podcast resta il nostro core come diciamo sempre, ma allo stesso tempo la radio continuerà ad avere quel fascino che difficilmente diciamo può svanire nei nostri cuori, anche se vedo che molte radio insomma poi alla fine oramai fanno questo tipo di lavoro, soprattutto da quando è nato Twitch. Prima lo facevano magari acquisendo un canale televisivo, oggi ancora meglio gratuitamente con i canali Twitch, praticamente fanno questo lavoro di interconnessione e fanno questa versione diciamo visiva della radio, la radiovisione. È una cosa un po' alla quale aspiriamo noi, ma sappiamo che questa cosa non sarà possibile con tutti quanti i programmi, anche perché c'è chi è predisposto, chi non è predisposto, e soprattutto c'è chi non gli interessa poi fondamentalmente, che potrebbe anche essere un fatto questa cosa. Perché magari non c'ha la webcam, perché magari ha disagio nei confronti della webcam e via dicendo. Insomma, questo è un po' quello che vi volevo raccontare, perché chiaramente Runtime Radio, nonostante il fatto che il mio telefonino da questa mattina ha deciso che non ci sono più contenuti multimediali da riprodurre, cioè ha azzerato il volume dei contenuti multimediali, devo capire veramente come risolve questo problema, insomma queste erano le cose che vi volevo raccontare, perché è bello il fatto che in qualche maniera ci accompagnate in queste trasformazioni, ma soprattutto la cosa ancora più bella secondo me è il fatto che aprendo nuove vie si aprono nuove finestre dalle quali la gente si affaccia per vedere quello che stai facendo, e quindi stiamo ricevendo nuovi contatti, che è una cosa interessante, il che va chiaramente a vantaggio dei podcast e della radio, perché chiaramente la radio subisce un nuovo impatto con nuove persone che comunque arrivano piano piano verso di noi. Quindi dobbiamo essere sempre contenti delle innovazioni, anche quando quelle innovazioni non, insomma, diciamo, non ci ispirano particolarmente, perché diciamo la nostra vocazione va verso altro, perché magari Twitch non ci piace, ma in realtà se andiamo a vedere insomma niente ci piace, cioè nel senso è tutto un po' un merdume complessivo da YouTube a Twitch a tutto il resto. Però insomma diciamo che avere una piattaforma così che ti incentiva a fare determinate cose, e diciamo è strutturata in maniera tale da indirizzarti abbastanza bene nel trovare anche pubblico, sebbene io non ho capito la cosa dei tag, ragazzi, è una cosa che, cioè, ho capito che esistono dei tag collettivi e che tu devi usare i tag collettivi, però è vero pure che se io devo parlare di storia dell'informatica e non c'è un tag attinente, ma io come cazzo faccio? Cioè, insomma, questa è una cosa che vorrei un po' capire, ma ci arriveremo piano piano. Quindi va bene, dai, io direi che adesso ci sentiamo un'altra canzone che ho già messo già diverse volte, secondo me, però mi collega appunto al tema che sto per iniziare. Me ne vado via, c'ho il cuore a pezzi per la vergogna di questa terra che non m'aiuta mai, di questa gente che te sputa in faccia, che non ha mai preso mano, che si distingue per una cravatta. Me ne voglio andare da sto paese marcio che c'ha li buchi posto del cervello che va a mangiare sull'ossa di chi soffre, che pensa solo al posto che può perdere. C'avemo forza e voglia più di tutti, andiamo là dove ci stanno i morti, anche se siamo due ossa dei prosciutti, ci vederà chi c'ha gli occhioni sani, che ci dirà venite giù all'inferno, almeno ci avrete il fuoco per l'inverno. Se c'hai un cuore, tu me puoi capire. Se c'hai l'amore, tu me puoi seguire. Che ce ne frega, se non contiamo niente. Se siamo sotto i calli della gente. Che te dico, io mo me butto al fiume, così finisco de campa sta vita, che a poco m'ha succato occhi, più delle pene de Satana è chi spera che forse un giorno chi magna troppo adesso possa sputare le ossa che sono sante. E questo è Antonello Venditti con Sola Rosa, una canzone che, come ho detto, ho sicuramente già messo diverse volte nelle mie programmazioni, una canzone alla quale io sono affezionato in una maniera incredibile, oltre al sentire una voce di Venditti così pulita, così giovane, no, in qualche maniera, quando non si era ancora prostituito nel modo più totale, anche se era già un po' sulla strada, però non si era ancora prostituito. Questa canzone è bellissima, che racconta di una situazione popolare tra romanità e popolarità, chiaramente è una situazione completamente diversa e non contestualizzabile con quello che è la situazione attuale, però comunque in qualche maniera si parla di miseria, no? in questo senso. E la prima osservazione che vorrei fare in merito a questa cosa è quanto la politica è... c'è sta canzone, ripenso a Richard. Sì, giustamente Walter, guarda, no, perché non è quello il contesto. Questa canzone ricorda più Pasolini, forse per certi versi, però sì, vabbè, ci sta comunque il fatto che comunque ti possa essere venuto questo ammicco. Volevo dire, quanto allora noi nella nostra storia di podcaster di radio abbiamo detto diverse volte, preso spunto insomma da una frase che disse Luigi Marrone tantissimo tempo fa in una delle puntate che facemmo di archeologia videoludica, e l'uomo è un essere temporale e vive nel suo tempo in qualche maniera e subisce la fascinazione del proprio tempo, del proprio passato in qualche maniera. E più cresci e più chiaramente rimani vincolato a un qualcosa che vedi lontano e guardi con rimpianto, come se tutto il passato in quanto passato fosse migliore, no? E noi pensiamo alle nuove generazioni e diciamo: ah, ma questi si ascoltano la musica di merda, ah, ma sono tutti più stupidi, ah, ma nessuno gli va a fare un cazzo, ma quando eravamo giovani noi era così e così e cosà. Erano tutte cose che noi abbiamo sentito dire dai nostri vecchi fondamentalmente, e ci troviamo a ridire anche noi, perché evidentemente è un passaggio psicologico e fisiologico che fa parte insomma della nostra antropologia, diciamo così, e ci sta un po' come tipo di discorso. Non è una cosa né da negare né da schifare, ma fondamentalmente, però, se noi a volte dobbiamo anche essere un po', cercare anche un po' di essere oggettivi nel bene e nel male, nel pro e nel contro delle cose che osserviamo, dobbiamo anche dire che la politica negli ultimi 40 anni è cambiata tantissimo. La politica una volta probabilmente era più intrisa, diciamo, di corruzione, c'erano tangenti, c'era tutta una serie di determinate cose, perché probabilmente mancavano anche gli strumenti per poter vincere questo tipo di situazione, fino a che ovviamente magari la magistratura non diventava non creava un, diciamo, un sistema, cioè un processo sistematico alla politica in confronto alle prove magari raccolte nel tempo. Se no, tu diciamo che nei confronti della politica eri schiacciato per certi versi, e se avevi bisogno di qualcosa dovevi sempre sottostare a determinate regole. Però qui tra l'altro c'è, forse ho capito il perché non mi funzionava più perché c'è un pulsante Bluetooth acceso qui sul mixer, e quindi vuol dire che sul mio telefono c'è il Bluetooth attivo. Perfetto, ok, abbiamo capito anche questo ennesimo mistero, me lo so capito da solo quando mi c'è caduta la coda dell'occhio. E dicevo, tu comunque dovevi sottostare a determinate regole, a determinati principi, diciamo così, e quindi se tu chiedevi qualcosa dovevi dare sempre qualcosa in cambio. Però la politica comunque si prendeva le proprie responsabilità, no? La politica era politica, non c'era una distinzione, cioè c'era una distinzione tra politica, economia, marketing, sponsorizzazioni e via dicendo. Oggi invece la politica si è giustamente, no, nel lavoro di grande globalizzazione che alcuni paesi nel mondo a un certo punto hanno detto di voler rifiutare, giustamente dal loro punto di vista, che è quello di una americanizzazione della politica. La politica in Italia era sancita e garantita dalla Costituzione, la quale ovviamente si impegnava a dare alla politica stessa i soldi necessari e gli strumenti necessari per poter sopravvivere in qualche maniera. Quindi ecco qua i finanziamenti ai partiti e via dicendo, no? Quindi poi ovviamente gli organi di informazione, tutta una serie di cose che comunque erano collegate alla discussione pubblica e che venivano comunque foraggiate, incentivate dallo Stato stesso, che è un principio corretto e per me continua ad essere un principio corretto. Scusate. E questa situazione oggi è cambiata perché qualcuno ha voluto che cambiassero le regole, perché l'economia, quel liberismo così estremo, quell'avidità che vuole che si metta mano su qualsiasi cosa sia nella nostra quotidianità, ha voluto che questo tipo di speculazione entrasse anche nella politica, e quindi la politica di per sé non esiste più. Ma non soltanto per il raffronto al fatto che gli stati si guardano più da un punto di vista finanziario economico piuttosto che politico, ma questo in generale, ma proprio perché comunque per fare politica oggi servono quegli accordi che aiutino, incentivino ad entrare economicamente all'interno di determinati meccanismi quei partner che ti sostengono, e senza quel tipo di sostegno tu ovviamente oggi la politica la puoi fare di meno. E quindi ecco che nasce la politica sponsorizzata, no? Cioè, come le squadre di calcio hanno uno sponsor tecnico, la politica ha la stessa cosa. Questa è una cosa che succede da tantissimo tempo oramai, ma a maggior ragione oggi, dove la politica è praticamente stata sempre più incastrata in questo meccanismo, fino a rimanere praticamente incastrata all'interno di una scatola, di una piccola box all'interno del quale finge di esistere, quando poi in realtà sono tutte le forze che sono intorno che determinano come si governa e cosa si governa. E questo lo dico perché Io ho lasciato Roma, insomma, intorno al 2007, sono andato via da Roma, nella città in cui sono nato e cresciuto, città che ho amato profondamente e continuo ad amare profondamente, perché in qualche maniera per me Roma è sempre quella grande signora che... quella grande puttana, diciamo così, che vuole bene a tutti ma non vuole bene a nessuno, no? Cioè, che accoglie tutti ma non ama nessuno fondamentalmente, che però aveva comunque il suo fascino, aveva la sua storia, il suo modo di essere, il suo modo di dire, no? Anche viaggiando molto mi sono interagito con tante persone, no? Su alcuni modi di dire che si usano nel dialetto romano e come si collegano a determinate lingue anche internazionali, no? Ad esempio c'è una battuta che si fa a Roma, no? Cioè, quando tu chiedi: oh, ma come ti chiami? Io non mi chiamo, sono l'arte che mi chiamano. Sembra una cazzata, cioè, sembra una battuta da sbruffoncello, ma in realtà, se ci pensiamo, in russo è così che funziona. Cioè, tu non chiedi a una persona come ti chiami, ma chiedi a una persona come vieni chiamato o qual è il tuo nome, che è diverso, ok? Quindi come ti chiamano? E questa è la stessa cosa. Cioè, se tu vai a pensare, in tante altre situazioni mi sono trovato ad avere raffronti linguistici con modi di dire romani, perché comunque Roma ha avuto questa opportunità nella sua storia di aver a modo suo globalizzato un mondo ed aver preso da quel mondo qualche cosa, qualche piccolo tassello. Ecco, Roma, in questa sua bellezza, no? Non solo bellezza storica, anche storica anche nel senso proprio più popolare del termine, no? Nei suoi rioni, nel suo dialetto, nel suo modo di dire, nelle sue tradizioni, nei suoi gesti, nella sua gestualità, Roma è un grande patrimonio. Però Roma, alla fine, negli ultimi 20-30 anni è stata amministrata in maniera sempre più progressiva verso questo tipo di cambiamento della politica. E quando tu oggi vai a Roma, e mi è capitato qualche sera fa, insomma, un paio di settimane fa, vai a Roma, insomma, verso la zona Colosseo, e vedi che le strade sono piene di monopattini, ma sono anche piene di piscia e di cacca, ti rendi conto che dici: boh, secondo me qualcosa non va. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio: dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio: dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva: o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Fabrizio De André, mortacci vostri con chi cazzo era questo? Proprio, mi viene di proprio mortacci vostri a voi, chi cazzo era questo? Perché non solo c'era sta voce incredibile, così profonda, così armonica, ma poi cioè, vabbè. Comunque dicevo, parcheggiare i monopattini sopra la piscia da cacca, perché? Perché praticamente ho girato un pochino, devo dire veramente era tanto tempo che non ci andavo a Roma, nel senso più legato a mi faccio una bella passeggiata di sera, no? E questa cosa mi ha veramente colpito, mi ha veramente colpito, perché praticamente la politica, cioè che significa amministrare una città? Ok, che le grandi città come Roma e Milano sono l'anticamera della visione del governo nazionale, no? Però in generale quando si parla di amministrare una città significa amministrare una città, non pensare ai massimi sistemi, no? E quando tu vedi che progressivamente negli ultimi 20 anni, in maniera 25 anni insomma, la città è stata completamente abbandonata, e tutta quella che è la politica sociale è completamente sparita a fronte ovviamente dei, appunto, dei massimi sistemi, no? degli accordi, le city car a noleggio, le biciclette elettriche, i monopattini, insomma tutte quelle infrastrutture che fanno finta di dare questa impressione di una città moderna che guarda al futuro come fanno le grandi metropoli del mondo, però poi allo stesso tempo le associazioni che si occupano di violenza sulle donne sono completamente scomparse, oppure sono state sfrattate, polisportive che comunque portavano via la gente dalla strada vengono sfrattate a fronte di magari un centro commerciale, librerie che spariscono, cinema che muoiono, e se non fosse per le realtà del tessuto, quindi quelle associazioni che in qualche maniera cercano di resistere a questa totale mancanza di supporto, lo scollegamento tra la politica e il cittadino sta per diventare praticamente totale, più di quanto in realtà già non esisteva. E in tutto questo devo dire che io ho attraversato Roma di notte tantissime volte a piedi, anche a mio rischio e pericolo, perché io, non avendo mai avuto la macchina, non avendo mai avuto la patente, quando dovevo andare in certi posti e non c'era magari qualcuno che mi accompagnava, facevo da solo. Io tante volte mi è capitato di fare da via 20 settembre fino a Piazza di Roma a piedi, che è un bel tragitto, ma per me era normale, cioè nel senso era normale amministrazione, passando per stazione Termini, che la stazione Termini è sempre stata un po' un posto particolare, chiaramente, come tutte le stazioni e vi dicendo, ma la cosa che mi sconvolge è non tanto quanto è peggiorata la situazione alla stazione Termini, è questa ipocrisia, questa falsità, questo imbellettiamo questo palo e buttiamo tutta la merda intorno al palo, cioè facciamolo bello verniciato, dorato, con tutte le luci intorno, guardate che bel palo che abbiamo noi qui a Roma, e poi fuori dalle luci, al di fuori dello spettro luminoso, del fascio di luce, del cono di luce, tutti quei mostri, quei zombie, tutta quella merda, ma merda nel senso fisico, non parlo de merda che di schifezze, ma parlo proprio della cacca, proprio le feci delle persone, tutti questi zombie, questi mostri che stanno lì, che brulicano intorno e non si avvicinano alla luce perché la luce è loro nemica, o perché per la luce magari vengono bastonati se si avvicinano alla luce, no? Quindi le stazioni che vengono strapulite, disinfettate, chiuse alla notte, in modo che comunque se d'inverno durante la pioggia qualche barbone muore, meglio, perché così insomma abbiamo un problema in meno barboni ci sono, ma in realtà poi non ci si rende conto che quelle persone sono come il gioco del 15, no? Come se sposta la testa ne arriva un'altra, insomma, quindi poi alla fine questo è un po' quello che succede all'interno della città, e questo degrado che si sta ampliando sempre di più, e per non parlare Questo, io sto parlando del centro di Roma, non sto parlando delle borgate e del disagio che aumenta nelle borgate tanto quanto a essere ritornati negli anni 60, quando poi praticamente questa cosa portava a criminalità, a tossicodipendenza e via dicendo. Quindi siamo tornati 50 anni indietro da questo punto di vista, no? Ma io sto parlando del centro di Roma, cioè di quella parte di Roma dove passa il turista e dove tu riesci a pulire per far passare il turista bene. Laddove non ci riesci, il turista si trova a passare sotto un ponte o a Via Nazionale e vedere il barbone che fa la cacca dentro un box magari di un bar chiuso. E questo sono le cose che succedono, succedono probabilmente in tanti altri posti del mondo, però diciamo che in una città come Roma non soltanto questa cosa si è amplificata, questa macchia si sta espandendo, ma si sta espandendo perché questa politica qui manca completamente di presupposto sociale, cioè non c'è proprio più l'attenzione. Cioè è tutto accordo commerciale, è tutto accordo politico, economico, non c'è proprio più l'attenzione, perché io non posso pensare che un sindaco di una città che è stato eletto possa far finta che non esistano queste situazioni, questi mostri, questi spettri che camminano la notte e stanno lì e non c'hanno un pezzo di pane, persone... Non soltanto nella miseria, perché la miseria può essere anche una conseguenza, ma io parlo anche di sanità mentale, di criminalità, di gente che impazzisce, che si tagliano la gola con le bottiglie, persone che hanno bisogno di essere assistite dal punto di vista neurologico, psicologico. Non esiste più niente, ragazzi, questa città è completamente allo sbando, è una cosa spaventosa. Io non me ne sono reso conto, vedevo ogni tanto dei video così su YouTube e poi parliamo anche di questa cosa. Però quando poi l'altra sera sono andato a Roma, ragazzi, mi è sembrato di ritornare ragazzino, quando tu andavi in giro per la città e sentivi la puzza di piscio. Ragazzi, questo è... Lo posso dire, da romano, da amante di sta città, a me sta cosa fa schifo. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. E invece le porta la morte perché radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, carezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. sia l'Angelo Bertoli, eppure soffia, ragazzi, pure questo grande uomo, persona insomma con oggettive difficoltà, insomma, che è riuscito comunque a tenersi in piedi, tra virgolette, può sembrare un po' una cosa ridicola. Michela, buongiorno Michela, buongiorno, dice buongiorno, arrivo mezz'ora prima all'appuntamento, e insomma sta nella città piena di monopattini, esattamente. Forest Pizzi dice Vincent Valentine, se dovevo andare da qualche parte ci andava correndo. Guarda, lo puoi dire veramente forte, non andavo correndo ma sicuramente ci andavo camminando. Giustamente anche Vargion ci dice che insomma, se non altro noi riusciamo a mostrare comunque anche l'aspetto bello delle nostre realtà e non come le grandi città come Dubai. Guarda, Dubai è un incubo a occhi aperti, cioè, se andate a vedere ci sono anche persone che hanno fatto bei reportage su Dubai che ovviamente sono state cancellate da YouTube perché va bene, no? Lo sappiamo, comunque lì stiamo parlando di un mondo artificiale, di una grossa scenografia, intorno c'è la morte chiaramente, ma questo lo sappiamo. E Walter dice Simone, ma quando insomma a Roma non c'è stata la puzza di viscio, ti assicuro Walter, io non so, poi ognuno ha sicuramente le sue esperienze. C'è un eco strano, vabbè. Stamattina funziona tutto un po' a cazzo, però finalmente sono riuscito più o meno a ripristinare. E ognuno ha avuto le proprie esperienze, ma ti assicuro, io Roma l'ho vissuta notte e giorno a piedi, soprattutto a piedi, appunto, come ti ho risposto. E Roma negli anni 90 era diversa nel modo più assoluto. C'è stato un momento in cui, secondo me, Roma ha toccato anche momenti di, tra virgolette, eccellenza, che erano partite dagli anni 70, perché i ragazzi come me, che sono appunto cresciuti insomma negli anni 70, hanno fatto la primissima parte della loro vita, si ricorderanno sicuramente anni 70, quindi inizio anni 80, si ricorderanno sicuramente le campagne che faceva l'AMA al cinema, nelle scuole, per tenere Roma pulita, perché comunque a Roma così tu mangiavi la pizza e buttavi la carta per terra, cioè questa era proprio un'abitudine tipica, no? Piano piano questo tipo di atteggiamento comunque ha portato a un approccio più attento, diciamo, cioè comunque c'era, ti spiegavano perché non dover avere rispetto insomma della propria città che amiamo tanto, no? E questo chiaramente un po' ha influenzato, diciamo, quelli della mia generazione, tant'è che io per esempio ero uno di quelli che aveva le saccocce piene di carta, le carte delle gomme, carte di sigarette, carte, perché non le buttavo, cioè fino a che non trovavo magari un cestino e via dicendo. E questa è una cosa che mi ha sempre fatto piacere. E se vi ricordate, in quella grossa intensificazione, ma io parlo dell'AMA, ma poi in realtà questo è un discorso proprio strettamente civico, c'è stato un momento in cui si spingeva molto sull'educazione civica, c'era appunto questa bellissima campagna dell'AMA, che se vi ricordate c'era il disco di oddio, come si chiama quello, l'attore romano che faceva la pubblicità del caffè, più lo mandi giù più di risù, oddio, in questo momento ce l'ho sulla punta della lingua e non mi viene in mente, vabbè, comunque che aveva fatto il disco, no? Roma, cioè Roma se la vedi al contrario diventa amor, e c'erano i giocatori della Roma che avevano vinto lo scudetto nell'83, se vi ricordate che c'era quello spot bellissimo dei giocatori della Roma che giocavano praticamente a pallone con una lattina di Coca-Cola e poi praticamente con la telecronaca dei Ciotti con l'ultimo tiro che forse è un colpo di testa di Pruzzo e la Coca-Cola andava dentro al secchione e tutti che esultavano, tutti contenti, insomma, devo dire. Nino Manfredi, bravo Walter, non so, lì per lì non mi veniva, c'ho avuto. Oh, c'è anche Francesco. Buongiorno, un cazzo funziona un po'. Un cazzo è un attimo, sì, lo so, hai ragione. Ecco, insomma, c'è stata questa ricostruzione, no, per certi versi, ed è stata anche una costruzione positiva. Perché comunque c'è stato un momento in cui la gente questo atteggiamento, ma io lo riscontravo anche negli altri, se mi capitava che mi cascava qualcosa per terra c'era sempre qualcuno che mi rompeva, dico, ah, ma che lo fai sporchi per terra, non beggia. E poi chiaramente questo non significava che se tu ti mettevi a far picnic per terra a Roma era tutto bello, insomma, anzi, cioè, chiaramente però c'era questa situazione qui. E se voi andate, vorrei parlarne, ma magari ne parlerò più accuratamente la prossima volta, perché siamo già ai 50, non me l'ero neanche reso conto, perché noi quando parlo io passa il tempo e neanche me ne rendo conto. Comunque c'è questo canale YouTube, ne abbiamo già parlato con Walter, perché per altri motivi fondamentalmente, che si chiama Cicalone, lui si chiama Cicalone Simone, praticamente fa già questo canale che si chiama come lui, ma tra in questo canale praticamente c'ha una serie di video che si chiama Scuola di Botte, che è anche molto tra virgolette ironico. Loro sono tutti pugili fondamentalmente. Tra i ragazzi c'è quello alto con la barbetta, che tra l'altro è pure un campione, cioè nel senso uno non credo che, non so se a livello internazionale, se a livello europeo, addirittura a livello mondiale, che praticamente insomma vanno, a parte questa cosa dei combattenti, la scuola dei combattenti e via dicendo, hanno un approccio particolare. Io non ho voluto approfondire determinate cose, ma so e mi aspetto che tra i suoi video uscirà fuori qualcosa tipo Viva Arduce, non so perché ho questa sensazione che prima o poi rimarrò con questo dolore nel petto praticamente, perché il modo in cui Cicalone si approccia a certe tematiche come quelle dei barboni è un modo che a me piace tantissimo, e se lui fosse di destra questa cosa ci dovrebbe far riflettere in realtà, perché lui va per le strade a parlare con i barboni. È vero che ci fai video, ci fai soldi su YouTube, quello che cazzo mi pare, però è uno che sta lì, ascolta, ti spiega, non si schifa, cioè raga, ma in situazioni dove io penso che nessuno di noi probabilmente si avvicinerebbe, quindi lui ti racconta queste situazioni, ci fa anche un certo tipo di discorso sopra senza mai prendere una posizione dal punto di vista politico, cioè nel senso non è una questione ideologica, è però una questione sociale, e lui ovviamente fa questo tipo di racconti, racconta queste persone, le intervista, fa vedere dove stanno, dove vanno a cagare, va a vedere dove vanno, quello che mangiano, va a vedere come stanno di testa, che chiaramente, e qualcuno lo aiuta anche, c'è cioè, un ragazzo polacco che era evidentemente fuori controllo, c'aveva 30 anni, ragazzi, il ragazzo è 30 anni, polacco, tra l'altro se tu lo vedevi anche curato, con la barbetta curata, roba del genere, che stava completamente fuori di testa e che viveva a mezza strada, perché evidentemente le cose non gli erano andate, ma 30 anni, ragazzi, cioè io posso capire, una persona a 50 anni ha fallito nella sua vita, ci ha avuto problemi dei debiti, quello che vi pare, cioè nel senso è incomprensibile uguale, ma ci può stare, no? Ma a 30 anni, cioè a 30 anni tu stai lì e stai in mezzo a una strada senza un futuro, cioè una cosa veramente fuori di testa. Ecco, lui fa questo in questo suo canale, e a volte ci si approccia un po' con diffidenza, perché veramente c'è il timore che a un certo punto se ne esce con e poi lui va con tutti questi suoi combattenti, cioè quindi questi ragazzi che fanno pugilato, chiaramente lo fa anche per una questione di sicurezza, chiaramente, cioè nel senso comunque andare in quel contesto, loro si approcciano sempre nel modo più tranquillo possibile, non è vanno lì a rompere i coglioni, ora quando vedono la situazione strana cercano di calmare la situazione, e loro sono i primi a dire che chi è in grado di menare è proprio quello che non dovrebbe menare. Allora, se Cicalone, che vi invito insomma ad andare a vedere, guardatevi qualche video insomma, e poi sicuramente c'è una, perché poi c'è tutta una serie di cose che non sono niente, per niente compatibili con me, no? Però se Cicalone fosse una persona di destra a un certo punto, ci sarebbe da riflettere sopra su sta cosa, perché vuol dire che noi abbiamo perso proprio il contatto con la realtà, abbiamo proprio perso il contatto con la società, abbiamo proprio perso il contatto con le situazioni più umane, tutte quelle concezioni politiche che in realtà avrebbero dovuto essere l'accoglienza e quindi dare una mano, e questa roba è sparita tutta, cioè ragazzi è sparita, perché noi nel senso quella sinistra borghese che oramai ha completamente cancellato la sinistra di per sé, è comunque andata via da queste realtà, è andata via dalle scuole, è andata via dalle fabbriche, è andata via dalle strade, è andata via dalle sezioni di partito, è andata via da tutti quei posti dove c'era un contatto con la società, con le persone, dove c'era una quotidianità da raccontare, perché le persone, ragazzi, una cosa che abbiamo imparato anche noi facendo questa cosa che abbiamo fatto per 12 anni, le persone hanno anche voglia di raccontarsi e di raccontare qualcosa di loro e di quello che gli è capitato, e questa è una cosa che bisogna tenere in considerazione. E quindi se c'è un Cicalone che lo fa al posto di un'istituzione, di un servizio sociale che dovrebbero occuparsi di questo, insomma Noi a Cigalone, anche se fosse uno di destra, anche se fosse un fascista, toccherebbe dire grazie. Roberto Vecchioni, Samarcanda, Roberto Vecchioni, che come dice giustamente Walter, l'ha tenuto bloccata per anni in una cattedra, cioè stava lì, la teneva bloccata, cioè non te muove. No, a parte gli scherzi, così mi sembrava divertente questa battuta. Comunque Samarcanda è una canzone bellissima, io dedico ovviamente a mia moglie. E niente, vabbè ragazzi, questa è un po' quello, la giornata di oggi. Io invece, mentre che mi appresto ad andare verso la chiusura, vi dico, così non ve ne frega assolutamente niente, ma dopo non so quanti anni, sabato sera torno allo stadio con mio fratello, anche perché io e mio fratello siamo uno della Roma e uno della Lazio, e quindi era quasi praticamente impossibile, giusto quando eravamo ragazzini che ci portava allo stadio nostro padre, e io ero costretto a vestirmi con la maglietta della Roma, facevo il tifo per l'altra squadra però, e mi menavano tutti. Bene, bene, bene, ragazzi, è stato un campionato bellissimo, devo dire, nonostante tutti i problemi è stato un bellissimo campionato, ma non ce ne frega assolutamente niente. Io vi ricordo che questa sera Walter Sbano torna con l'ultimo appuntamento della settimana delle orazioni della sera, mentre che questa sera, quindi alle 20 chiaramente, e questa sera alle 21.30 sia in interconnessione runtimeradio.it che Twitch ci saremo noi con Quando eravamo futuro, e parleremo di quando l'un video è entrato nelle case delle persone. Non parlo della pellicola, parlo proprio del magnetico. Sarà una puntata abbastanza interessante. Sarà con noi anche Federico Croci, che ovviamente è un mega esperto, insomma, di home video e sistemi analogici anche molto esotici. Mentre domattina torna Leo Varghion con il mattino allora in podcast alle ore 7 con l'ultima puntata della settimana anche lui, e parlerà probabilmente di un manga, film, fumetto, anime, non so cosa. E poi ovviamente sabato mattina ci saremo io e Michela con il nostro fantastico crossover dalle 8:30 alle 9:30. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, continuate a seguire Runtime Radio, e se vi capita andate su runtimeradio.it/anch'io oppure andate su runtimeradio.it e cliccate sul pulsante anch'io, e contribuite ovviamente a quello che è ovviamente l'ho detto quattro volte, la nostra campagna, diciamo, di raccolta fondi, che è utile e funzionale, diciamo, al mantenimento di quella che è la nostra struttura. Quindi, insomma, potete fare una donazione una tantum su PayPal, oppure fare una donazione ricorrente su Patreon. Grazie a tutti, buongiorno un cazzo, buona giornata un cazzo a tutti, e mi raccomando, state sempre allerta, state cagliardi e tosti, e state al sicuro.